dedicata a un lavoro dell'Associazione La Fabbrica del Tempo. Ringrazio a questo proposito il presidente, dottor Rosani, e il dottor von Hartungen, che ha curato insieme ad altri, poi ci spiegheranno la storia, la nascita di queste pubblicazioni. È un lavoro pregevole, interessante, che ci tocca da vicino tutti quanti e che ha il pregio anche di essere stato realizzato in formato DVD, delle musiche fortemente evocative, ma non voglio, ecco, così svelare troppo la sorpresa. Ringrazio il dottor Zeppa, che ci ha onorato della sua presenza questa sera qui in biblioteca. Questa biblioteca, che occupa una sede provvisoria in vista del polo bibliotecario che verrà realizzato fra qualche anno, ha mosso i primi passi nel 2001-2002, raccogliendo materiale soprattutto di interesse locale. È stata una sfida all'inizio, direi, abbastanza coraggiosa, perché indagare il locale di una realtà così piccola e particolare come la nostra era veramente un interrogativo che ci siamo posti. In realtà, col tempo, ci siamo appassionati. Abbiamo visto che questa passione viene condivisa da tante persone che seguono i nostri lavori, direi quotidianamente, anche se in questa piccola sede nascosta noi abbiamo tutti i giorni persone che ci vengono a trovare, prestiti, materiale esce da questa biblioteca e tante persone ci chiedono delle consulenze, non solo sul nostro territorio, ma anche persone che vengono da via. Quindi questa è una soddisfazione che abbiamo, perché vuol dire che il lavoro che stiamo facendo e che abbiamo messo in linea, condividendolo, quindi mettendolo a disposizione di tutta la comunità virtuale, viene mano a mano scoperto anche da altre città e da altre persone. Questa sera, spero appunto che arrivi anche il professor Cigolla, vogliamo condividere questa occasione di conoscenza del materiale che è stato raccolto dalla Fabbrica del Tempo. Cedo la parola al dottor Rosani. Vi ringrazio di essere venuti. Vi ricordo che, come sempre, quando facciamo l'iniziativa, leghiamo all'iniziativa anche una bibliografia. Abbiamo preparato una bibliografia apposita con dei libri, la nostra vetrina, che potete trovare sia in internet che qui, consultabili direttamente dopo l'iniziativa. Vi ringrazio e buona serata. Credo di dover parlare con il microfono, almeno queste sono le indicazioni. Willkommen zu euch allen, benvenuti a questa serata da parte dell'Associazione La Fabbrica del Tempo, che insieme alla Biblioteca Claudia Augusta ha organizzato questa seconda presentazione bolzanina. È la seconda volta che qui a Bolzano presentiamo questo libro Le lettere aperte, questo libro sulla storia delle opzioni. E allora mi si permetta innanzitutto, prima di entrare nella tematica e di parlarne assieme al nostro referente scientifico, al dottor Christoph von Hartungen, di raccontare anche un percorso, cioè di spiegare perché l'Associazione Culturale La Fabbrica del Tempo è giunta a questo lavoro, ha fatto, ha presentato, presenta questo lavoro sulle opzioni. Noi abbiamo fondato 12 anni fa un'associazione culturale. Ci siamo riuniti più volte attorno a un tavolo, ci siamo posti delle domande, ci siamo soprattutto posti una domanda. C'è un modo per aiutare la popolazione che vive nelle nostre città, per creare, per aiutare, per incoraggiare una sorta di Heimatgefühl anche presso la popolazione che vive nelle città di Bolzano, di Merano, presso la comunità italiana? C'è un modo che può portare ad un risultato positivo? Possiamo impegnarci su questa tematica? E noi ci siamo dati una risposta 12 anni fa, e la risposta è stata la creazione di questa associazione culturale. Sì, c'è un modo, ci sono tante cose, noi possiamo dare un piccolo contributo, ma lo possiamo fare. Possiamo innanzitutto cominciare anche a raccontare la storia di queste città. Ecco perché poi negli anni che sono seguiti abbiamo fatto un lavoro, abbiamo presentato dei lavori sulla Bolzano durante la Seconda Guerra Mondiale, ad esempio, o sulla zona industriale della città di Bolzano, sulla memoria di questi avvenimenti. Abbiamo lavorato sulla tematica dell'edificio Alumix, che è un edificio adesso tutelato ai sensi di legge, e quindi grosso risultato al quale anche noi credo abbiamo dato un contributo, cioè il primo edificio della zona industriale di Bolzano che la provincia autonoma di Bolzano riconosce come monumento culturale. Quindi è una cosa estremamente importante. Beh, insomma, il Heimatgefühl, allora questo sentimento di appartenenza passa anche attraverso queste situazioni. Questa è una una parte però del discorso che questa associazione ha inteso intraprendere 12 anni fa. Poi c'è un'altra parte, e cioè la necessaria consapevolezza, conoscenza, condivisione della storia complessiva e complessa di questo territorio, di questa nostra Alto Adige, di questo nostro Sudtirolo. Quindi anche indagare, ma non solo in modo scientifico storico, indagare anche con la passione quelle che sono state le vicende complesse del nostro territorio. Perché di una cosa abbiamo detto subito con molta chiarezza, bisogna conoscere, riconoscersi, ma anche condividere la storia di questo territorio. E quindi in qualche modo non può esserci una storia che non sia anche la storia di tutti. Beh, la storia, lo dico per fare un esempio, la storia di un qualsiasi paese, della Valle Aurina piuttosto che della Val Pusteria, che sia di Livinallongo o di Cortina d'Ampezzo, per rimanere a tematiche più attuali, è anche la nostra storia. Però vale il contrario: la storia della zona industriale, la zona della città di Bolzano, la storia della città di Merano sono storie anche dell'intero territorio sudtirolese. Questo evidentemente è un punto sul quale noi insistiamo moltissimo, ed è per questo che abbiamo intrapreso questo percorso. Ecco che quindi arrivo alle lettere aperte. La motivazione per cui abbiamo lavorato su questo tema è certamente perché il dottor Fabrizio Miori a Roma ha trovato presso l'Archivio Centrale dello Stato questo materiale che per buona parte era inedito. E quindi grazie al suo lavoro, innanzitutto, abbiamo poi organizzato una ricerca più complessiva su questa tematica, su queste lettere aperte, di cui poi anche il dottor von Hartogen vi spiegherà e vi svelerà diversi segreti. Ecco, però questo è il motivo, pratico, il motivo concreto dal quale siamo partiti, ma l'idea di fondo è quella naturalmente di approfondire la storia del territorio intesa nella sua complessità e nella sua integrità. Prima di entrare nella tematica delle lettere aperte, mi sia consentito di leggervi una lettera che abbiamo ricevuto oggi a mezzogiorno, e da parte del presidente della provincia, Luis Turnwalder, che mi ha pregato di condividerla con i presenti. Io molto volentieri la leggo a tutti voi. Sono davvero spiacente di dover rinunciare all'ultimo momento a partecipare alla presentazione del libro Le lettere aperte. Quest'oggi infatti dovrò ricevere il presidente della Baviera, Günther Beckstein, che è in visita istituzionale nella nostra provincia. Vorrei tuttavia spendere due parole di sincero apprezzamento per il lavoro dell'associazione e per questo libro in particolare. Credo che un popolo debba conoscere la propria storia, le proprie origini, il proprio processo di crescita. Ed in questo senso la pagina di storia delle opzioni rappresenta un passaggio davvero importante e delicato per la popolazione sudtirolese. Una fase storica che merita particolare attenzione, ed il fatto che sia un'associazione culturale italiana a proporre questo approfondimento è indice di grande attenzione per un processo di conoscenza reciproca. Solo grazie alla conoscenza della rispettiva storia e della rispettiva cultura è possibile il rispetto e la convivenza. Anche per questo motivo sono davvero rammaricato di non essere presente oggi, ma mi auguro sinceramente che, grazie al costante impegno dimostrato anche in altre lodevoli iniziative da parte dell'associazione e di tutti coloro che hanno collaborato a realizzare questo libro, sia possibile comprendere l'amore e l'attaccamento a questa nostra provincia. Ma attenzione, una provincia che va sentita come propria da tutti noi, indipendentemente dall'appartenenza linguistica, da tutti coloro che qui vivono e che con il loro lavoro, il loro impegno, il loro volontariato contribuiscono ogni giorno a migliorarla. Vorrei concludere con un cordiale saluto a tutti voi e mi auguro davvero di un arrivederci a presto. Ecco, io ho il piacere di leggere questa lettera del presidente della provincia perché per molti tratti riprende le cose nelle quali evidentemente anche noi crediamo. Io vorrei cedere a questo punto la parola ad Andrea Zeppa, è il vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio. Desidero segnalarvi, come una cosa alla quale tengo molto, la Fondazione Cassa di Risparmio appoggia da molti anni ormai le iniziative della nostra associazione culturale, è diventata ormai il secondo partner dopo la stessa provincia nella realizzazione delle diverse iniziative, perché come voi sempre sapete per realizzare le cose è necessario anche sostenere determinati costi, e quindi la Fondazione da questo punto di vista si è sempre rivelata un partner prezioso. Buonasera a tutti, grazie Tiziano dell'invito e grazie alla Biblioteca Claudio Augusta dell'invito. Io partecipo sempre volentieri alle presentazioni della Fabbrica del Tempo, non solo per amicizia verso Tiziano, ma perché sono fra le pochissime associazioni in provincia di Bolzano che hanno saputo fare quel lavoro a cui lui accennava di scavare nella storia recente, del Novecento soprattutto, con grandi capacità e con una, come dire, capacità di mettere in fila gli eventi, di dare significato alle due comunità che convivono in questa provincia, anche con molto coraggio, va detto, e i risultati che stanno ottenendo mi fanno molto piacere. Noi come Fondazione Cassa del Risparmio sosteniamo iniziative culturali a vasto raggio, ma in particolare tra le associazioni storiche la Fabbrica del Tempo è una di quelle, come dire, che seguiamo con maggiore interesse. Da parte mia va il complimento alla Fabbrica del Tempo, alla Biblioteca Claudio Augusta che ha saputo organizzare questo evento, e vi lascio alla presentazione. Grazie, buonasera. Grazie Andrea Zeppa. Una informazione tecnica: siamo stretti, ma questa è la nostra storia, questa è la nostra biblioteca, e quindi crescerà sicuramente, però insomma intanto siamo in un appartamento. Forse possiamo ovviare a qualche problema di spazio se riusciamo un po' a venire avanti. Magari chi è adesso fuori dalla porta, se riuscisse in qualche modo a entrare, avrei piacere se potesse trovare, diciamo, uno spazio o qualcosa che gli assomigli, ecco. Grazie. Anche qui davanti possiamo forse venire, insomma, non, se c'è ancora qualcosa. Vabbè, insomma. Noi dobbiamo farci carico della nostra storia, la nostra storia è fatta anche di biblioteche in appartamenti non ancora adeguati, però mi si permetto di dire che anche come consiglio scientifico di questa biblioteca e come consiglio di amministrazione in altri casi è stato più volte richiesto di trovare una soluzione più confacente, insomma, alla dignità stessa della biblioteca. Però intanto questo possiamo fare, e la Biblioteca Claudio Augusta fa già moltissimi miracoli. Christoph, du bist unser sozusagen wissenschaftlicher Leiter, Koordinator auch zum Teil dieser Forschung. Ich möchte dich sehr bedanken für all was du für uns gemacht hast und mit uns gemacht hast. Una presentazione della tematica, delle opzioni e del lavoro svolto, le lettere aperte, come vi spiegherà il dottor von Hartungen, si riferisce proprio alla modalità con cui queste lettere sono giunte a noi, perché sono state fisicamente aperte, cioè durante il periodo di cui trattiamo, 39 in particolare, anni successivi fino al 43, queste lettere, che erano di corrispondenza normale con qualche eccezione, sono state aperte da speciali uffici della polizia, lette, trascritte, tradotte in moltissimi casi, e può sembrare una cosa molto strana, da un punto di vista storico però abbiamo l'occasione anche di capire quello che erano i sentimenti del territorio e anche guardare in faccia alla realtà. Christoph. Vielen Dank. Tante grazie. Allora, questi due volumi di lettere aperte cosa contengono? Cosa è il senso di questa pubblicazione? Le dittature di tutti i tempi hanno un problema, perché impediscono che la gente possa esprimere le sue opinioni liberamente. Non solo la gente normale, anche la stampa, tutti sono più o meno imbavagliati. Questo da una parte è comodo, fa comodo perché non c'è critica, almeno a livello pubblico. Dall'altra parte però queste dittature non sanno cosa la gente veramente pensa o cosa bolla in pentola, per così dire. Sono molto, queste dittature hanno il problema di essere, più vanno avanti negli anni, di essere sempre più autoreferenziali e di allontanarsi sempre di più dalla gente. Questo è successo senza dubbio con il fascismo, è successo in misura forse anche maggiore, misura ancora maggiore per le dittature, diciamo, di stampo comunista, che hanno poi anche per il fatto che hanno durato un po' più a lungo, no? E per cercare di capire gli umori della gente, cercano in qualche modo di trovare delle escamotage per riuscire a capire veramente il senso, l'opinione pubblica. Questo è già successo, non è la prima volta tutto il fascismo, è già successo negli anni, diciamo, del sistema cosiddetto reazionario ai tempi di Metternich, nell'Ottocento, forse anche prima. E il fascismo ha trovato un modo molto interessante, molto proficuo, diremo, in pratica ha iniziato un controllo delle lettere, delle lettere inviate per posta dalle persone. C'era, come già accennato Tiziano, presso ogni questura c'era un ufficio, propriamente ufficio revisione si chiamava, nome di copertura, ma revisionavano le lettere. Aprivano le lettere a caso, pescavano nel sacco, come si suol dire, nel sacco postale, oppure aprivano con sistema perché c'era qualcuno che era sospetto per un motivo o per l'altro, aprivano, leggevano, trascrivevano e poi inviavano a Roma al Ministero degli Interni. Questo si faceva da tutte le questure di Bolzano, di tutto l'intero territorio nazionale. Allora erano 96, circa 96 province, circa in queste dimensioni. Qui in Alto Adige il problema era ancora un po' più difficile in provincia di Bolzano, perché la maggior parte delle lettere era scritta in tedesco, no? E proprio questi interessavano anche per capire cose, gli umori degli cosiddetti, allora cosiddetti allogeni. E allora bisognava aprire, trascrivere, tradurre e poi inviare. Poi le lettere venivano rinchiuse dentro in busta e poi venivano recapitate all'indirizzo esatto, così che in linea probabilmente quasi nessuno o la maggior parte non si è mai accorta che le proprie lettere, una cosa molto privata, erano già state lette e magari erano anche già addirittura depositate presso il Ministero degli Interni a Roma, no? E perciò lì c'è stata questa raccolta. Poi, come tutte le dittature precedenti e forse anche che si sono seguite, queste lettere poi venivano prese in considerazione sì e no, più no che sì, e giacevano per anni, per decenni, prima al ministero, poi venivano in parte anche distrutte, in parte venivano cedute all'archivio centrale dello Stato, dove però solo di poche province e soprattutto della provincia Bolzano le lettere sono ancora conservate. Per le altre si è detto ma hanno poca importanza, si butta, mentre qua col problema del confine, della minoranza eccetera, si è pensato di conservarle. E allora queste lettere cosa contengono, cosa rispecchiano? Chiaramente rispecchiano problemi personali che non abbiamo poi preso in considerazione per il libro, chiaramente, ma abbiamo per il libro, ed è anche il maggior corpo di lettere conservate, quello degli fine anni 30 e poi anni 40. E per l'Alto Adige è il periodo delle opzioni e il periodo di poi fino della guerra, no? E qui naturalmente le pubblicazioni, le lettere iniziano con il primo gennaio, le lettere pubblicate iniziano col primo gennaio del 39 e le ultime sono dell'agosto del 43, poco prima del crollo del fascismo, anzi posteriori al crollo del fascismo, poco prima del crollo dell'Italia, dell'8 settembre in pratica, quando poi ovviamente queste attività finirono immediatamente. Cosa c'è dentro? Ma leggiamo quello che la gente, i problemi che la gente, che assillavano la gente comune. Ed era all'inizio degli anni, diciamo nel 39, per la gente, soprattutto il fatto che la Germania era arrivata al Brennero, l'Austria era stata inglobata nella Germania, che si sperava, che taluni speravano che la Germania andasse oltre, arrivasse fino, diciamo, a liberare la zona, la provincia di Bolzano, altri che avevano la paura che questo potesse succedere. Comunque un gran fermento, una grande irrequietezza in tutta la provincia. Poi scoppia, quasi il caso di dirlo, scoppiano le opzioni, nel senso che in giugno c'è questo accordo fra le parti italiane, fasciste e naziste, a Berlino, e i sudtirolesi vengono messi davanti a questa scelta, o optare e andare per la cultura cittadinanza germanica o restare in Italia e, come si credeva o si temeva allora, rinunciare alla cultura tedesca. E qui naturalmente scoppia un vespaio, no? Nel senso che la gente si scrive, si consulta, confida i propri problemi, le proprie paure, dicono che non c'è certezza perché nessuno dice chiaramente cosa e come si farà, girano delle, anche questo tipico delle dittature, girano delle dicerie incredibili, ma che vengono quasi, in mancanza di notizie certe, vengono prese per vere, e naturalmente aumenta con questo aumenta l'irrequietezza, aumenta la paura per il proprio futuro. Ci sono poi le lettere dei fanatici che non vedono l'ora di poter scegliere, la lettera poi della gente che dice: ma in Germania non è tutto oro, perché andare tutti fuori? Poi la Germania è già in guerra, siamo nel autunno del 39, chissà come cosa sarà, mentre l'Italia era ancora non belligerante come aveva dichiarato Mussolini, chissà cosa succederà, cosa avverrà, come avverrà, e avanti di questo passo. Le critiche a questa, perché poi si vede che la maggior parte della gente è invogliata a scegliere per la Germania, le critiche di taluni, soprattutto di sudtirolesi che vivono fuori della terra, della propria provincia, quelli che per motivi di lavoro sono a Londra, in Svizzera, e soprattutto molti che vivono in Italia, nelle varie città d'Italia, e dicono: ma non è poi così male, si può anche vivere, pensateci prima, meglio, eccetera eccetera. Poi col 30 dicembre del 39, primo gennaio 40, le opzioni sono fatte, poi iniziano le partenze e poi le lettere di quelli che sono andati o hanno dovuto andare fuori subito, e naturalmente grosse delusioni, anzi addirittura disperazione in molti casi. Qui ci hanno detto che verremmo accolti dai nostri fratelli di stirpe germanica come fratelli, eccetera, ma in verità ci dicono: ma che ci venite a fare voi lazzaroni, restate, perché non siete restati invece di rubare a noi gli appartamenti o comunque via dicendo, no? Poi anche la paura di scrivere lettere, chiaramente inviare lettere per posta, perché anche la posta germanica, cioè anche le autorità naziste controllavano la posta ovviamente, e più. Poi la guerra, che diventa anno in anno diventa sempre più pesante, la gente che viene mandata a combattere, i giovani che vengono mandati a combattere, i primi morti, quello che succede, e la guerra che è sempre più opprime soprattutto coloro che sono andati fuori o dovuti andare fuori in Germania, mentre qua ancora si sta abbastanza bene, eccetera. Poi naturalmente il problema delle opzioni, lo strascico, diciamo, economico, la parte economica delle opzioni, perché naturalmente le proprietà venivano valutate da commissioni italiane, commissioni tedesche, poi veniva deciso l'indennizzo, eccetera eccetera, e l'astio per molte persone qua, che dicono: qua a centinaia vivono alle nostre spese questi burocrati, questi impiegati delle autorità germaniche o italiane, e vivono in hotel, in alberghi, vivono bene, mentre i nostri figli sono fuori a combattere, chissà come vivranno, cosa sarà di loro, eccetera. E questo qua sempre più si diffonde, diciamo, sì, un tipo di cupa rassegnazione, perché chiaramente la guerra, anche se arriviamo solo al 43, però la guerra è sempre più pesante, ha un peso sempre maggiore, notizie dalla Germania di bombardamenti, eccetera eccetera, tutto questo viene descritto in queste lettere. Queste lettere sono, come dire, uno spaccato della vita quotidiana, forse meno vita, dei pensieri della gente comune. Cosa pensa? Mentre noi storici lavoriamo su documenti, diciamo, d'ufficio, su documenti amministrativi, eccetera, eccetera, dove naturalmente è l'ottica è un'altra, mentre qua proprio, e in questo sta, secondo me, il valore di queste lettere, è proprio quello che la gente vive, pensa e soffre in questo periodo, diciamo, molto cruciale per la storia dell'Alto Adige e del Sud Tirol. Grazie dell'attenzione. I lavori dell'associazione La Fabbrica del Tempo hanno un po' la caratteristica di essere sempre dei lavori di squadra, quindi diciamo ci sono diverse persone che hanno condiviso con noi anche la costruzione di questo libro, e se lo vedrete, se lo sfoglierete, è fatto in due volumi, abbiamo diverse introduzioni anche alla tematica, quindi si parla delle opzioni ma si cerca anche di contestualizzare questo fenomeno che è importantissimo per la nostra terra, ma non è solo della nostra terra, perché in quel periodo purtroppo nella parte centro-orientale dell'Europa, sotto dittatura nazista o comunista successivamente, popolazioni le più diverse sono state spostate con o senza opzione nei modi e nelle forme più particolari. E Nicolò Pianciola, che è un ricercatore dell'Università di Torino, si è occupato in modo particolare di questa tematica. Così come anche Gustavo Corni, che è docente presso l'Università di Trento, ha lavorato anche sulla tematica del grande spazio germanico, quindi di questa creazione, secondo l'ideologia nazionalsocialista, di un territorio nel quale poi queste persone che avevano optato, sia provenienti dal Sud Tirolo ma anche da altri territori, avrebbero poi dovuto in qualche modo essere stanziati. E allo stesso modo anche Giovanni Perz, che ci ha accompagnato nella ricerca, ha lavorato soprattutto sulla tematica delle voci, no? Che si inseguono e che in qualche modo creano una sorta di mito, di falso mito. È molto interessante vedere anche nel suo testo come le fonti più diverse poi alla fine collimano, cioè se una voce viene messa in circolazione per ragioni anche di propaganda in una imposteria, si scopre che poco dopo è data per certa anche, che so, in Val Venosta piuttosto che in altri territori. Cioè c'è un inseguirsi, un crearsi insomma di voci che diventano voci collettive. Dicevo prima di Fabrizio Miori, ha approfondito soprattutto la tematica delle modalità con cui poi si è proceduto fisicamente all'apertura di queste lettere, alla lettura, alla trascrizione e quant'altro. Lettere che sono riportate nei documenti attualmente solo in lingua italiana, perché in buona parte tradotte. Non sarebbe corretto dire che sono tutte lettere originariamente in lingua tedesca e poi tradotte. Quindi c'è una percentuale che non è facilmente calcolabile, perché non sempre è indicato la lingua di provenienza. Talvolta, insomma, chi ha trascritto queste lettere non ha specificato se che so io, l'abitante di Cortina d'Ampezzo scriveva in lingua italiana o in altra lingua, non specificava se per esempio l'abitante della Bassa Tesina stava scrivendo in italiano o in tedesco. Talvolta lo si può capire anche da come sono tradotte, un po' malamente in qualche caso, queste lettere, ma non sempre è perfettamente comprensibile la lingua d'origine. Sta di fatto che noi in questo momento abbiamo lettere in lingua italiana, e questa è anche una riflessione che ci siamo fatti. Se le traduciamo in tedesco, in realtà le stiamo ritraducendo per la seconda volta, quindi le stiamo tradendo una seconda volta. Il rischio è di mettere in bocca delle persone delle parole che non solo non hanno pronunciato, ma le hanno dette in modi differenti. Per la presentazione di questa sera, che invece è organizzata con due attori, alcune di queste lettere le ascolterete in lingua tedesca. Si tratta di una ritraduzione fatta ovviamente anche per ragioni sceniche. E a questo punto io do la parola agli attori per la presentazione di queste lettere aperte. Grazie. Grazie. Meran, 3. Juli 1939. Lieber Sebastian, ich muss dich über das schwere Unglück informieren, das uns getroffen hat. Gestern war der deutsche Konsul in Meran und hat die unwiderruflichen Entscheidungen des Führers und des Duce bekannt gegeben, dass alle deutschen Untertanen ohne Unterschied diese Region innerhalb von 3 Monaten verlassen müssen. In Meran und Umgebung haben mehr als 6000 Deutsche ihren Wohnsitz. Hunderte von ihnen sind Grundbesitzer oder Geschäftsinhaber, die tausende Arbeiter und Angestellte beschäftigen. Die alle werden ihr tägliches Brot verlieren. Denn die Italiener, die da heraufkommen werden, werden sicher keine Deutschen beschäftigen. Außerdem wird die ganze deutsche Bevölkerung dieser Provinz, seien es Bauern oder Bewohner der Städte, innerhalb von 2 Jahren dieses Land mit der gesamten Familie verlassen müssen. Dein Bruder Johannes. Caldaro, 3 luglio 1939. A Osvaldo Sebastiani, segretario particolare del Duce. Qui sembra il finimondo, perché non è uscito nessun comunicato ufficiale da parte nostra e la popolazione sfoga la sua fantasia nelle più inverosimili ipotesi e versioni. Tutti sono presi dal panico di dover abbandonare la loro terra e di essere mandati in Abissinia. Continuo ad assicurare che chi sarà cittadino italiano, corretto e tranquillo, potrà rimanere. Ma mi sembra di essere una predicatrice nel deserto. Deserto flagellato dai tigri. Saluti, Maria Luisa. Bolzano, 10 luglio 1939. A Giuseppe Steinken, a Gerst, Germania. Da 3 giorni tutto il Sud Tirolo si trova in una grande eccitazione. Gli uomini bestemmiano e le donne piangono, perché tutti saranno costretti ad espatriare. Fra breve saranno distribuiti dei moduli per sottoscrivere, ovvero se si vuole andare in Germania, oppure rimanere italiani. In quest'ultimo caso si dovrà emigrare in Italia meridionale. Le proprietà fondiarie verranno riscattate e il denaro ricavato si potrà prendere con sé. Gli italiani dicono che questa sarebbe l'unica soluzione per italianizzare finalmente il Sud Tirolo, perché adesso, dopo 20 anni, la gioventù, malgrado le scuole italiane e nonostante la soppressione di tutto quanto era tedesco, è più tedesca e fanatica di prima. Tua sorella. Le cose belle che ti voglio dire, tu solo io dovrai sentire. Londra, 12 agosto 1939. A Walpurg Kasse, Brunico. Io so bene la causa di questa disgrazia. Nel giorno del suo compleanno Hitler ha ricevuto dai sudtirolesi una lettera di auguri contenente 13.000 firme. Egli l'ha inviata a Mussolini con l'osservazione: questi sono i tuoi fedeli sudditi. E così di seguito sono state emanate le note disposizioni. Vi consiglio di rimanere in patria e di non emigrare, di non andare da quelli che vi hanno abbandonati e venduti. Andate dal re e dal papa, oppure venite qui in Inghilterra, o immigrate in Svizzera. Vostra Caterina. Bolzano, 30 settembre 1939. A Maria Seid, Innsbruck. Ultimamente un sacerdote avrebbe detto dal pulpito della chiesa di Santa Cristina in Valgardena che la popolazione decida di rimanere nell'Italia cattolica piuttosto che emigrare nella Germania luterana. Qualcuno, in fondo alla chiesa, gli rispose ad alta voce: piuttosto che votare per gli italiani, voto per il diavolo. Berta. I see, mon ami, es war wunderschön, tausend Dinge möchte ich noch sagen, Liebling. Bolzano, 23 ottobre 1939. A Luigia von Zallinger Thurn, Salisburgo. Voi avrete letto anche nel giornale Dolomiten la rettifica sul problema dell'emigrazione. Benissimo, ma dovevano dirlo 3 mesi fa, perché è stata una cosa irresponsabile lasciare impazzire questo povero popolo dagli aizzatori, sia tedeschi che italiani. Allora si diceva che tutti i tedeschi atesini qui rimasti sarebbero stati trasferiti giù nelle vecchie province meridionali del Regno, in Sicilia e persino nella Libia, e per questa ragione quasi il 90% si era dichiarato per la Germania. Quanto grande e profonda era la sofferenza spirituale del popolo lo dimostra il fatto che nelle cassette delle elemosine per il pane di Sant'Antonio si era raccolta nel solo mese di agosto la somma di lire 4.000, il doppio del solito. Vostra Maria Prati. Sanremo, 31 ottobre 1939. Lettera di Louis Weilbrunner, scritta alla madre Maria a Bolzano. Liebe Mama, du kannst machen, was du willst, aber ich habe mich nunmehr entschlossen, hier in Italien zu bleiben. Unter diesen Umständen habe ich nicht die Absicht, nach Deutschland auszuwandern. Und ich hoffe, dass ihr es euch auch noch einmal überlegt, bevor ihr euch dazu entschließt. Ich verstehe nicht, warum alle Südtiroler das Land verlassen wollen, um nach Polen auszuwandern. Denn dort wird es ihnen auch nicht besser gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn bei euch alle erbitterten Aufrührer beseitigt sein werden und die Leute in Ruhe gelassen werden, der Frieden auch wieder zurückkehren wird. Es wird sicher nicht leicht werden für euch, mit den Italienern zu kollaborieren, aber diese Starrköpfigkeit und dieser Groll gegen alles Italienische muss ein Ende finden, sonst wird es unmöglich für euch, in eine friedliche Situation zurückzukehren. Man muss die Vergangenheit vergessen und man muss sich eine Meinung bilden, gemäß den neuen Ansprüchen des Lebens. Das ist doch wirklich nicht schwer. Ich habe mit vielen Deutschen gesprochen und alle haben mir empfohlen zu bleiben und sich ohne Widerstand in den Willen Gottes zu begeben. Wirtschaftlich geht es euch ja auch nicht schlechter als anderswo, denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Zeiten überall schwer sind und der ganze Welthandel im Moment blockiert ist. Jeder muss sein Opfer bringen, in der Hoffnung, dass die Zeiten bald vorbei sind. Glaubst du wirklich, in Deutschland wird es euch besser gehen? Das ist ein großer Irrtum, in jeder Hinsicht. In Liebe, dein Sohn Luis. Brunico, 14 novembre 1939. A Franz Tartarotti, Bolzano. E ora, Franz, tu chiedi il mio parere. Io non te ne posso dare, né voglio. Perché non vorrei mai dirti di rimanere per poi domani vederti infelice, né dire subito andiamo, per andare incontro alla leggera ad un destino. Ti prego ancora di riflettere, di informarti il più possibile e di prendere ciò che ti si dice come verità, ma verità da discutere e da provare. Io comprendo, Franz, la tua lotta e so anche che non è l'interesse o semplicemente l'attrazione del nuovo che ti fa pensare sulla scelta. Noi sappiamo ciò che lasciamo ora, ma poi, e che cosa ci aspetta in Germania? La Germania sta facendo un affare perché chi economicamente ci guadagna è lei. Poi, essendo in guerra, non vi è di meglio che nuove braccia per lavorare sia alla terra che nelle fabbriche. Ma quando la guerra sarà finita? E come finirà? Quando gli uomini torneranno, quando le mille braccia che erano impiegate nella erezione di trincee e di opere belliche torneranno, dove si troverà il lavoro? E poi, Franz, non credere che venga mantenuto tutto ciò che viene promesso. E questa parte è la sistemazione economico-sociale, la parte sentimentale è più complicata. Io amo la Germania ed il popolo tedesco, ma l'attuale governo l'odio. Perché, Franz, non è solo ad Hitler che si deve l'ordine e la disciplina. Queste qualità sono proprie del popolo tedesco. Queste qualità ogni ministro le avrebbe fatte ritornare a galla in una nazione come la tedesca. 5 o 6 anni di governo non avrebbero fatto che poco se la materia non avesse avuto nel sangue ciò che da lei si pretendeva. Hitler ha fatto scomparire la disoccupazione, ma come? Impiegando tutti nella preparazione della guerra, lo sai anche tu. Se pensi all'Austria, alla Cecoslovacchia, alla Polonia, non puoi altro che farti un'idea della sua voracità insaziabile. Certo, tutto è ben mascherato. Se lo senti parlare ti commuovi, perché tutto ti sembra bello e giusto e umano. Ma in realtà, possibile che Inghilterra e Francia abbiano tutti i torti, lo so che ne hanno mille, ma forse in questa guerra meno che nelle altre. Senti quello che dicono gli austriaci e i cechi e i tedeschi fuoriusciti. Franz, non è la patria che combattono, ma chi la governa. Ora non parlo più, a voce potremo discutere, per lettera è impossibile, perché lo sai. Una cosa ti voglio dire, mio leoncino. Che qualunque sia la tua decisione, io sarò con te. Non sarà un sacrificio per me, perché vicino a te non temo di nulla. Ti prego, se tu prendi le informazioni, chiedi anche per me, perché non devi dimenticare che andremo in uno stato in guerra. Quindi anche tu dovresti, se non immediatamente, entro qualche tempo essere arruolato. E comunque dovrai prestare il servizio militare, io quindi avrei la necessità di lavorare. Chiedi dunque che cosa potrei io fare. In caso mi metterei a studiare io stessa il tedesco. Ascolta, questo nel caso che tu decidessi di andare. Io non posso sapere cose che tu sai. Quindi non posso dire nulla di preciso e devo tenermi a considerazioni di carattere generale, né qui posso dire tutto. È meglio che per ora nessuno, neanche i miei, sappiano di questi progetti. E poi anche per il mio posto è meglio tenere tutto nascosto fino all'ultimo momento. E dove vorresti andare in caso? In Austria, io penserei, o tutt'al più in Baviera. E pensa, mio leoncino, che in nessun posto troverai il tuo Tirolo e che nulla è eterno a questo mondo. Solo ricordati che io verrò con te e che non ti amareggerò l'esistenza con recriminazioni. Ovunque possiamo essere felici, se insieme e con un minimo per vivere discretamente bene. Ma se ora andandocene devi subito andare sotto le armi e restare 2 anni, che faremo allora, Franz? Che cosa avremo trovato? Ancora una volta ti ripeto di pensarvi con calma e di misurare il pro e il contro sotto le tue bandiere. Di più, potremo dirci a voce e mi potrai spiegare tante cose che ignoro. Ed io te ne potrò dire altre. Sempre tua, Zita. Miteno, 16 dicembre 1939. A Italo Gioppi, militare presso la compagnia deposito del 7° reggimento Genio. Restituita al mittente. Sì, ho la cittadinanza tedesca. Italo, vedi, questo è amor di patria, che è più forte che amore per una persona unicamente cara al mio cuore di fanciulla. Questo è un richiamo di sangue e di razza, perciò ho superato il mio cuore. Un grido di richiamo che supera tutto, tutto. Italo, sì, sarei una buona moglie, una buona mamma, ma non una buona italiana. L'Italia ha bisogno di buoni compatrioti e questo si è negato riguardo una tedesca. Come si può amare una volta sola di un vero amore solo una persona, così si può amare una sola patria, credimi. Italo, cerca di comprendermi. Già non lo puoi, non lo potrai mai. Bisogna vivere in questo periodo. Italo, sono da 2 mesi che passo delle notti insonni pensando, finché sono arrivata quasi a vaneggiare. Non ero più padrona dei miei pensieri,